Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Io non ho famiglia, la mia famiglia siete voi. Avevo ancora mia madre l'anno scorso, ma mi è morta. Sono rimasto solo. Non ho più che voi al mondo, non ho altro affetto, altro pensiero che voi. Voi dovete essere i miei figlioli, io vi voglio bene. E bisogna che voi vogliate bene a me. Il muratorino è venuto oggi in cacciatora, tutto vestito di roba smessa, di suo padre, ancora bianca di calcina e di gesso. Mi disse della sua famiglia. Stanno in una soffitta. Suo padre va alle scuole serali a imparare a leggere, sua madre è biellese. E gli debbono voler bene, si capisce, perché è vestito così da povero figliuolo, ma ben riparato dal freddo, coi panni ben rammendati, con la cravatta annodata bene dalla mano di sua madre. Suo padre mi disse un pezzo d'uomo, un gigante, che stenta a passar per le porte, ma buono, chiama sempre il figliuolo muso di lepre, il figliuolo invece è piccolino. Alle 4 si fece merenda insieme, con pane e zibibbo, seduti sul sofà. E quando sono addolorato per le poche persone che si saranno accorate a sentire il mio incipit. Giorni fa tentai di postare come è stato su Facebook esattamente questa frase. Subito mi scrissero: sì, stiamo con te, conta su di me, qualunque cosa. C'è stato subito una sorta di coro di vergini vestali pronte a intervenire per il mio insanabile dolore. No, non sono io, è lo sfigatissimo maestro Perboni, il primo giorno di scuola, che dice subito ai suoi alunni: ci siete soltanto voi per me. Pensate, un signore di 30 anni, ma forse anche meno, che dice ai suoi ragazzi: amatemi, vi voglio bene, vogliatemi bene per sempre. Oggi chiamerebbero subito il telefono azzurro e lo rinchiuderebbero immediatamente per tentato attacco di pedofilia nei confronti di ragazzi di terza elementare. Ma allora era l'anno 1886 e De Amicis voleva dimostrare che in realtà l'Italia unita doveva essere basata su alcuni valori etici, sul rispetto, su alcune eterne realtà sulle quali andava costruito il paese. Una volta fatta l'Italia, gli italiani andavano fatti anche in questa meravigliosa scuola pubblica in cui c'erano tanti bambini buoni, tanti bambini sofferenti, tanti bambini poverissimi, disgraziati, con madri tisiche, con braccia morte, feriti, macerati, lacerati, e tanti bravi, integerrimi ragazzi di buona famiglia, ricchi, che facevano beneficenza. Il pomeriggio andavano con la mamma a trovare in questi tuguri, in queste anguste grotte, questi ragazzi, sempre una madre tisica, una sorellina paralitica, un ragazzo che inginocchiato, sguerciandosi, faceva i compiti con ancora i segni del lavoro minorile addosso. Beh, questa fantastica idea era qualcosa che sembra ormai lontano dalla nostra realtà. E io, per amor di paradosso, l'ho voluta portare questa mattina al Salone del Libro da cui sto trasmettendo, dato che l'argomento è la primavera digitale, dato che il nativo digitale è in realtà il reuccio di questa nostra civilizzazione. Vorrei proporre una sovrascrittura di questo fantastico libro cuore, che chiamerò appunto ebook cuore da questa mattina, e anche l'hashtag su Twitter è appunto ebook cuore con il K, così rientriamo in tutti gli stereotipi e i luoghi comuni. Vorrei riproporre la possibilità di trasferire, tradurre, sovrascrivere i valori del libro cuore, così lontani, così vetusti, sui quali la nostra generazione si è lungamente prodotta con l'ironia. Noi nascevamo forti del diario minimo di Umberto Eco, in cui fece l'elogio di Franti, un fantastico elogio in cui Franti, l'antieroe, l'unico cattivo, l'unico disgraziato, l'unico crudele, quello che uccide sua madre, pensate un po', non c'è atto peggiore che uccidere sua madre, è diventato l'eroe per Umberto Eco, perché l'anarchico, i Bresci, è colui che si rivolta contro il potere costituito. Invece l'ottimo Garrone, l'animo nobile, in realtà è colui che dà inizio alle prime formazioni delle squadracce fasciste. E oggi di questi bravi ragazzi, di questi fantastici fanciulli, qual è la lettura contemporanea più attinente e più calzante a quella che è la nostra realtà familiare? Ciao papà, che stai facendo Gianluca sempre qui chiuso in questa stanza davanti a sto computer a smaltarti il pisello? Sto lavorando papà, non mi sta... Ma che cazzo dici Gianluca? E poi apri sta finestra che c'è puzza di morto qua, sembra di stare in un dormitorio di straccioni. Gianluca, io ti guardo, vedo il fallimento del padre, della famiglia. Gianluca, te sei il fallimento dell'intera civiltà, eh? Ti piace spendere i soldi del papà, eh? Ti piace farti bello con quelle tre puttane che ti girano attorno con i soldi del papà, eh? Ma papà, io non ti ho mai chiesto una lira, ho sempre... Appunto! Fatevi via basta senza manco chiedere! 800 24 00 24, spero che siate entrati nell'ordine idee. Per cui questa mattina dovete trasferire quello che è il retaggio del Libro Cuore, la traccia lunga del Libro Cuore, la sgommata emotiva del Libro Cuore che rimane ancora impressa nella vostra, nel vostro immaginario, nella vostra formazione familiare. Cosa vi resta del Libro Cuore e come potreste trasferire in un mondo fatto di Gianluca e di suo padre, fatto dei soliti idioti, fatti di bambini terrificanti che escono in casa e dicono: ciao mamma, dove vai? Vado a spacciare la droga, vado a fare le messe nere, vado a sposarmi col demonio e via dicendo. Che noi ci ridiamo, però in realtà quello non è altro che lo specchio solo lievemente deformato della nostra realtà ambientale, familiare. Oggi com'è possibile riproporre il Libro Cuore? Com'è possibile parlare oggi di valori? Com'è possibile parlare di rispetto? Rispetto per cosa? E il nativo digitale che nasce nell'idea che l'unico rispetto e l'unica regola che deve osservare e conoscere sono quelle dei segreti degli algoritmi che muovono i meccanismi delle sue macchine fantastiche di connessione, di lettura, di introspezione e di visitazione del mondo. Alberto Salza, buongiorno. Buongiorno. Alberto Salza è uno scrittore, un antropologo, l'ultimo suo libro si chiama Eliminazioni di massa, tattiche di controgenocidio, edizione Sperling e Kupfer, di cui parleremo poi ampiamente, probabilmente dedicheremo un'intera puntata perché è un argomento molto interessante. Però approfitto della tua esperienza di antropologo, di conoscitore soprattutto dell'Africa, per individuare innanzitutto in questo sorta di libello dei buoni sentimenti quante contraddizioni c'erano. Tu mi parlavi prima, il Libro Cuore, sì, bello, ma è un libro in cui i bambini vanno a fare la guerra. La piccola vedetta lombarda viene presa a fucilata perché lo mandano in cima a un albero a guardare, capito? E gli buttano i fiori addosso, sì, ma dopo che è schiattato. Il tamburino sardo gli zompano la gamba, gli tagliano la gamba. Il muratorino fa il muratore. Il piccolo Driossi, lo zoppetto, trascina le fascine. È un libro terribile. Noi ci scandalizziamo per i bambini soldato in Africa, ma idolatriamo il Libro Cuore che massacra i bambini. Il problema è che noi non ci rendiamo conto che i 4/5 del mondo vivono con i bambini soldato sotto casa, con i bambini che vengono mandati a lavorare, ed è tutto normale. Ma allora scusa, era un'epoca felice quella in cui non ci facevamo tanti scrupoli e anche i nostri bambini li mandavamo a lavorare? Non è un problema di felicità, è un problema di funzionalità alla società, perché naturalmente un bambino che nasce attualmente in un paese africano, se non è in un paese devastato dalla guerra, non riceverà nessuna assistenza se non da quella della gerarchia della sua società. Allora, poter andare ad aiutare il padre, la madre in un'attività che lo porterà comunque a diventare un adulto è straordinario. Ormai li abbiamo resi schiavi della nostra assistenza e quindi, vedete, i bambini del Libro Cuore sono tutti molto indipendenti, anche se hanno delle famiglie durissime, ma loro si costruiscono l'indipendenza. E siamo ancora dopo le guerre di indipendenza, non a caso. Quindi una bellissima costruzione di libertà, il Libro Cuore, che mette ovviamente a rischio, come deve essere qualunque lotta per la libertà, la vita e l'integrità dei bambini. E qui già facciamo il primo passo di sovrascrittura di questo ebook Cuore. Il bambino del Libro Cuore, anche se poi è specchio di virtù e di assolute nequizie soltanto nel caso di Franti, comunque un ragazzo molto indipendente, esce, va a lavorare, Enrico non ha mai la sorveglianza stretta dei genitori, e pensiamo sono ragazzi che vanno dai 9 a 13 anni, bambini. Oggi un bambino di 9 anni non si concepirebbe se non con un accompagnatore sempre dietro che lo porta alla piscina, all'arte marziale, alla lezione di piano, a lezione di metafisica trascendentale e via dicendo. C'è sempre una mamma e un papà dietro. Quindi la prima sovrascrittura sarebbe ridare ai ragazzi attuali questo senso della sfrontata indipendenza che gli fa anche rischiare, come il primo giorno di scuola di Enrico, è successo una disgrazia, un incidente, un ragazzo viene falciato da una carrozza, qualcosa del genere, comincia subito con la sfiga. E io penso proprio che questi bambini da noi abbiano dei grandissimi problemi, tant'è vero che il nativo digitale l'unica cosa che fa è richiudersi sempre di più, sempre più all'interno di una struttura autosufficiente, addirittura non esce per mangiare, non esce per vedere gente. Allora l'esposizione al virus costruisce gli anticorpi, questo lo diciamo da sempre, ma nessuno in realtà al momento pensa di poterlo applicare. È un errore gravissimo. Io ho visto bambini di 7 anni difendere il gregge dai leoni, perché a loro era affidata tutta la mandria della famiglia, quindi il capitale era tutto in mano loro, 7 anni. Ti faccio un esempio, l'esempio più classico del libro Cuore, in cui c'è un concetto di autorità intangibile, inviolabile, che è quello del maestro. Ma non a caso, il maestro, in questo caso il maestro Perboni, è una persona, è quasi un sacerdote, dedito a vita, lui è orfano, nemmeno passa per la sua idea di poterci avere una donna, una famiglia. La sua missione è dedicarsi a questi ragazzi. È il caso classico, come accadde la santificazione, la glorificazione di Garrone in terra. Lo deve a Franti. Franti è l'occasione del martirio di Garrone per cui diventa santo. C'era questa sorta di Crossi, questo ragazzino disgraziatissimo che aveva tutti i difetti del mondo, le malattie, venne la mamma a trovarlo che gli porta i cesti. Da dietro Franti scimmiotta la mamma di Crossi quando viene a aspettare alla porta, che è anche malata lei, oltre ad averci il figlio disgraziato, deforme, tutto, è anche malata, lo scimmiotta. Allora Crossi, poverino, un momento di ribellione, prende il calamaio e lo tira a Franti. Franti fece civetta, quindi si sposta, e il calamaio va a colpire il maestro. Non poteva accadere in quel momento cosa peggiore, il povero Crossi. Come se fosse spalancato il cielo, improvvisamente tutti gli angeli dell'Apocalisse fossero scesi su lui. Il maestro pallido sale sul tavolino, indenne perché l'ha sfiorato un calamaio, figurati, con voce alterata dice: chi è stato? E tutti zitti naturalmente. Il maestro: chi è? E si alza Garrone, mosso a pietà, dice: sono io. E da lì nasce naturalmente Garrone santo. Non ci potrebbe essere un Garrone senza un Franti. Il nativo digitale in realtà è fatto soltanto di Franti, non è nemmeno la gloriosa possibilità e chance di creare dei Garrone. No, sicuramente sì, invece, però bisogna tener conto che è un libro di formazione, esattamente come Moby Dick, tant'è vero che appunto il narratore è come Ismaele. Occorre che vengano fuori chiaramente i valori potenti. Il pensiero debole ci ha indebolito, questo è poco ma sicuro. Questi valori potenti o escono da una macchina e che non è particolarmente interessante, o escono da un'esperienza. Ecco, quello che stiamo negando ai nativi digitali è l'esperienza completa, sinestetica, cioè di colori mescolati a musica, suoni e a contatti umani. Allora, il libro Cuore in realtà scandiva i ruoli ben precisi per ognuno dei protagonisti. Questa mescolanza continua di ruoli, di adulti che diventano adolescenti, di bambini che non sanno a chi rivolgersi, nonostante il mondo del bambino sia tutto fatto di regole organizzate, ed ecco perché il maestro deve esserci, perché gli organizza le regole e gliele fa arrivare. A quel punto diventiamo tutti adolescenti, dove ci rendiamo conto che il nostro corpo fa tradire le regole, ma ci sentiamo ancora più traditi dal mondo adulto perché ce le ha insegnate. Allora, seconda fantastica sovrascrittura del libro Cuore: il nativo digitale in realtà è sfuggito ad ogni equazione spazio-temporale, anagrafica, di censo sociale, definizione di genere addirittura. È un'entità viaggiante in un mondo parallelo in cui incontra anche persone che potrebbe essere suo padre, suo nonno, e si rapportano tra loro con lo stesso linguaggio, con gli stessi codici e con le stesse regole, che sono gli algoritmi delle macchine che permettono che loro comunichino. Margherita da Milano, buongiorno. Tutti voi. Margherita. Sono qua, buona giornata a tutti voi. Allora, io sono una signora quasi 75enne, ho figli grandi, ultra quarantenni e ho nipoti. Posso dirvi che sono stata una lettrice appassionata, ovviamente, perché era della mia epoca, del libro Cuore, sul quale... 1886. Ho pianto con i miei compagni su certe cose, ho riso su altre cose. Perché non so lei, signora, io ho qualche mese meno di lei, più o meno abbiamo la stessa età. Lo regalavano perché dovevamo piangere, a me lo regalarono per la prima comunione, ho ancora il mio libro Cuore con la dedica a Gianluca perché impari a essere buono come questi ragazzi, e dovevamo piangere, cioè un libro si dava per piangere. Lei pensi, si regalava a un ragazzino un libro perché dovesse piangere, meglio dargli un calcio nel sedere, una frustata, piange subito e non ci pensa più, e no, noi lo leggevamo per far contenti i genitori, piangevamo. A me già allora faceva ridere, lo trovavo gaglioffo perché ero già allora un Franti, però in realtà trovo che sia pesante questa cosa. Lei ha pianto tanto su quello che lei, ma no, ma neanche per sogno. Ho pianto quello che si poteva piangere quando si era bambini, ho riso come si poteva ridere come era bambini. Qual era la cosa che più la rendeva triste del libro? Ma non importa, guardi, non è questo. Beh, sangue romagnolo, scusi, accoltellato volevo... sulle ginocchia della nonna. No, oh, santo cielo. Quello che volevo dire è che sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il signore dell'ultimo intervento, di cui è un antropologo, mi sono persa il nome. È Alberto Salza, un noto antropologo. Ci ha trasmesso quel libro assieme ad altri, per carità, perché io leggevo già da piccola Dickens, leggevo tante cose, ero una grande, sono una grande lettrice. Dei principi ben chiari, ben determinati, ben scanditi. Questi principi più tardi li ho magari anche discussi, li ho anche criticati, ma quello a cui voglio arrivare è questo, che allora come oggi, nelle letture, in tutti i tipi di letture, nell'educazione, i genitori devono essere a fianco dei ragazzi, gli insegnanti devono essere a fianco dei ragazzi, perché i ragazzi devono poter elaborare questi principi. Sì, ma gli insegnanti dove sono? Non sono più il maestro Perboni che rinunciava a tutto, al sentimento, all'amore, alla famiglia, per i suoi ragazzi. Chi è che oggi rinuncia a qualcosa per i ragazzi, gli insegnanti? Forse ricevono oggi, ma facciamo i nostri sforzi in famiglia perché per i nipoti non possa essere come era per noi. Manca questo elemento dell'amore per l'insegnamento come missione, e questo vale anche per i genitori però. Quindi tutte le cose vanno prese con il giusto senso e spirito critico, che poi con l'età viene, perché evidentemente oggi non leggerei più con gli stessi occhi il libro cuore. Ma è chiaro, deve ma invece guardi, io sono dell'idea che andrebbe letto e sovrascritto, adattato. Quello cercavamo di fare questa mattina. È chiaro che oggi non potrei mai dire, come esempio illuminato, un ragazzino che sale su un albero si fa prendere a fucilate e poi gli buttano i fiori sopra come unico ristoro del suo corpicino martoriato, però ci sarà pure una maniera per raccontare il senso del rispetto ai nostri ragazzi. Sentiamo allora Roberto Mordacci. Professor Mordacci, buongiorno. Buongiorno. Docente di filosofia morale all'Università Vita Salute San Raffaele di Torino, autore di Rispetto, Raffaello Cortina, editore. Il senso del rispetto oggi è trasferibile senza dover ricorrere a categorie così lugubri, così terrificanti e anche così angosciose come nel libro Cuore, secondo lei? Beh, mi auguro proprio di sì, perché diversamente saremmo condannati a pensare alla morale come una forma di flagellazione o di autoflagellazione, cosa che credo sia un una po' marca... è nella nostra cultura questo però. Ma questo è un segno di un moralismo veramente degenere, credo. E come se ne esce? Se ne esce innanzitutto ripensando alla moralità in termini di attraversamento di un'esperienza personale nella quale l'identità personale si forma in modo critico. E in questo viaggio il rispetto è importantissimo perché è una virtù duplice, cioè storicamente il rispetto nasce, se lei va a proprio a ripercorrerlo, anche nell'uso linguistico, come una virtù gerarchica. Il rispetto è anzitutto verso l'autorità, verso la legge, verso le istituzioni. Se andiamo addirittura indietro nella cultura latina, la parola respectus non ha il significato che diamo noi oggi, piuttosto in latino si dice venerantia, observantia, e addirittura in greco si dice aidos, cioè quella virtù strana che sta tra il pudore e la sottomissione. Quindi c'è proprio una struttura gerarchica. Rispetto a quello che si deve nella cultura arcaica all'eroe guerriero che si è guadagnato il rispetto dei compagni di guerra sul campo con la virtù guerriera, con la forza, il coraggio. Allora, oggi penso nella civiltà contemporanea e nell'estremismo di alcune correnti molto attive nel mondo digitale, questo senso sarebbe più applicabile, non so, a un setting sadomaso in cui le persone si scrivono, non ti do degli ordini e tu devi rispondere, è uno dei giochi che si fanno in rete. Sì, ma non è questo, cioè non è la virtù dell'obbedienza il rispetto è il riconoscimento di una forza che mi sta di fronte, alla quale io mi oppongo e alla quale mi adeguo o concordo con lei solo tramite un atto della mia libertà, questa è la cosa. Cioè il rispetto per l'altro io ce l'ho solo quando esercito un rispetto verso me stesso che dice sì, riconosco la tua forza come guida in questa circostanza, questo fanno gli Achei verso Agamennone, questo fanno gli Achei verso Menelao in altre fasi. E lo stesso Menelao, per esempio, nell'Aiace, quando l'Aiace si suicida per aver commesso il massacro del bestiame credendo che fossero Achei e così perdendo la sua virtù di onore di fronte agli occhi di tutti gli altri, prova idos, prova vergogna, quindi si suicida perché si è dato del ridicolo, Menelao vorrebbe seppellirlo fuori dalla città, fuori dall'accampamento, e invece Odisseo dice no, ma era un uomo generoso, era un uomo che ha speso se stesso in battaglia con grande forza, con grande coraggio, quindi gli dobbiamo rispetto, lo seppelliremo dentro l'accampamento. Questo vuol dire Aiace era come noi impegnato nella nostra battaglia e lo ha fatto con la sua libera adesione alla nostra difesa della patria, alla nostra missione. Questo è il punto. Allora, tra antico e moderno resta questo: la virtù del rispetto resta un rapporto con una forza, ma attraverso la cultura moderna, soprattutto attraverso Kant, il rispetto si trasferisce dall'esterno, rispetto verso la forza altrui, l'istituzione, le leggi, alla forza interiore, che è la libertà. Cioè, professore, io devo fermarmi solo un istante, devo dare la linea alle informazioni della borsa. Mi viene da dire, lo lascio come riflessione da riprendere appunto fra un paio di minuti, quello che viene a pensare è che tutto quello che le sta enumerando, innanzitutto c'è un riconoscimento di un valore metafisico e superiore che dà le regole, poi ci sono gli uomini come Odisseo che sono più avanti degli altri uomini, interpretano anche le regole. Nel libro Cuore non c'è margine di interpretazione, le regole non sono regole metafisiche ma sono regole delle brave persone per bene, del filantropismo, dell'amore di patria. Melog, la realtà condivisa. Lo sai, figliuolo, perché non volli che ripulissi il sofà? Perché ripulirlo mentre il tuo compagno vedeva? Era quasi un fargli rimprovero d'averlo insudiciato. E questo non stava bene. Prima, perché non l'aveva fatto apposta. E poi perché l'aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se li è ingessati lavorando. E quello che si fa lavorando non è sudiciume, è polvere, calce, è tutto quello che vuoi, ma non sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai d'un operaio che viene dal lavoro è sporco. Devi dire ha sui panni i segni, le tracce del suo lavoro. Ricordatene e vogli bene al muratorino. Pensate oggi un figlio che sente dirsi questo dal padre. Perché? Già gli portano a casa questo con la giacca da muratore tutta sporca di calcina, già lo fanno sedere sul divano bello del salotto, già gli danno la cioccolatina. Quando si alza a vedere c'è lo sporco di calce, da una pulita, perché mi sembra normale. No, non farlo, si offende, perché la giacca del padre è sporca di calcina. Fa la coppia al piccolo muratorino con la giacca bianca sporca di calcina, con il piccolo spazzacamino che il martedì, di fronte alla classe femminile, dove aleggiavano e scodinzolavano queste fanciulle tutte bianche, tutte gentili, tutte innocenti, tutte purissime, della sorella appunto di Enrico, del protagonista neutro e inesistente del libro Cuore, vedono una sorta di ammasso di fuliggine schifosa. E cos'è? Si avvicinano, alza gli occhi, era un bambino, era il piccolo spazzacamino che piangeva. Ma che hai, perché piangi? Domanda la sorella con le altre ragazze. Cioè, avevo guadagnato 30 soldi, li avevo persi, perché naturalmente cioè, pantaloni sfondati, la tasca sfondata si perde 30 soldi. Dice, non oso più tornare a casa senza soldi, il padrone mi bastona, disse singhiozzando e riabbandonò il capo sul braccio come un disperato. Le bambine ricche naturalmente fanno la colletta, sono piene di soldi, gli ridanno i 30 soldi, li rimette nella tasca bucata, se li riperde torna a casa e lo bastona al padrone, come è giusto. Alberto Salza, scrittore, antropologo, ricordo Eliminazione di massa, tattiche di controgenocidio, edizione Sperling e Kupfer, sarà il libro di cui parleremo in una prossima puntata, ma qua stiamo parlando di tecniche di genocidio infantile nel libro Cuore. Io insisto nella mia teoria, che naturalmente tu mi smonterai facilmente. Beh, sì e no, nel senso che i bambini vanno uccisi progressivamente per farli diventare adulti, facendoli soffrire naturalmente. Ma certo, facendoli soffrire, e questo avviene in qualunque società non occidentale attraverso le forme di iniziazione che sono durissime. Io ricordo feci l'autostop con uno Zulu in Sudafrica, e quando gli dissi che facevo l'antropologo, lui disse: ah, anch'io ho sempre voluto fare l'antropologo. E perché mai? Perché gli antropologi sanno prima cosa succede durante l'iniziazione. Ed ecco la grande cosa. Com'è l'iniziazione per lo Zulu? Durissima. Lo lanciano da una torre? Sì, più o meno, lo portano via per un mese e lo mettono nella foresta, dove gli adulti mascherati gli insegnano tutti i concetti fondamentali della tribù, poi gli tagliano la parte anteriore del pisello, lui deve anche sorridere, non fa niente. Pensate che in alcune culture se lo fanno quasi da soli, si tirano il prepuzio su una fossetta di raccogliere il sangue. Molti se ne erano a bestemmia. Io trovo ancora molto emblematico, qualcuno lo faccia oggi, che esista ancora l'idea che tagliare un pezzo di pisello significhi fare un gesto religioso, però col pieno rispetto di chi lo fa. Questo non è religioso, per loro se c'è qualcosa, la sanzione definitiva della cultura sulla natura. Il corpo umano è naturale, questo taglio, braman. Ecco, il libro Cuore è un libro di iniziazione molto profondo, molto complesso. Ognuno di questi subisce delle prove, si sporca, fatica, perché alla fin fine verrà redento dal diploma. Sì, però voi non siete cresciuti con il diploma. Enrico non succede mai niente, alla fine guarda, osserva, testimone delle disgrazie, ecco, perché... legge i racconti mensili dei bambini accoltellati sulle ginocchia della vecchia nonna, di quelli massacrati, ma lui non succede manco un raffreddore. E lì è un narrante, difatti sopravviverà alla prima guerra mondiale. E qui arriviamo perché si imboscherà sicuramente. Passa indenne, come lui non è un eroe, ecco, essenzialmente, ricordando Mordacci. Non è un eroe, perché vedete, gli eroi hanno un difetto grave: vanno a combattere per gli altri, si espongono, muoiono e evolutivamente cosa succede? Che le loro mogli si accoppiano con i codardi e vanno a perdere gli eroi. Conviene fare il codardo? Sì, alla fine svaniscono, cioè, proprio da un punto di vista tecnico non riescono a far nascere degli altri eroi. E il libro Cuore in questo senso è la costruzione degli eroi. Certamente finirà male, perché la prima guerra mondiale toglierà un sacco di illusioni, ma mia madre tornava dal lavoro con le mani bruciate dalle castagne che doveva sbucciare, noi portavamo ancora il ciocco a scuola per la scuola distrutta dalla guerra, e mia madre ha avuto la tisi. Se vogliamo vi faccio un libro Cuore personale. Che fortuna, a me non mi è successo. Che fortuna. Sono i geloni, ma c'è i geloni e i bombardamenti. Questa era, diciamo, la mia dose di mestizia fanciullesca. Sofia da Milano, buongiorno. A lei, complimenti per le trasmissioni che si rinnovano e non so come faccia a pensare. Lei preferirebbe accoppiarsi con un eroe morto o con un vigliacco vivo? È svenuto. Logico che vivo conta, ma non perché è un vigliacco, ma perché è vivo. Era una metafora a largo spettro, diciamo, a maggiore nella sua avventura esistenziale avrebbe maggior pregio di aver frequentato un eroe, però morto, lei vedova dell'eroe, o avere un vigliacco vivo vicino. No, vedova dell'eroe. Vedova dell'eroe, vedi allora esattamente il contrario. Riguardo al cuore, devo dire che io ho tentato di leggere al mio nipotino di 10 anni. Quanto è durata la lettura? Quanto tempo? È durata una mezz'ora, ma con mia tanto. Fatica estrema per modificare l'italiano e renderlo più vivace con parole attuali e tagliando parti di frasi un po' dolciastre, se vogliamo. Quindi secondo lei la prima sovrascrittura dovrebbe essere lessicale, andrebbe tradotto in italiano corrente? Sì, non solo, ma vivacizzare con qualche qualcosa di attinente all'oggi, perché logicamente c'è un po' di vaffanculi che non andrebbe bene, però secondo me, perché sarebbe questo la vivacizzazione lessicale, è mettere in bocca a questi ragazzi alcune parole non certo rispettose nei confronti dei loro genitori. Le faccio un esempio, non dico il calcio, ma qualche cosa di anche leggermente modificato. Guardi, le voglio dare degli spunti, Sofia, per rinnovare il linguaggio del libro Cuore e renderlo piacevolmente fruibile anche ai suoi nipotini. Mamma, esco! Dove vai? A commettere un omicidio! Nicolò, ma non te lo ricordi che giorno è oggi? No! È la festa della mamma! Avevi promesso che restavi a casa e mi aiutavi a fare i biscotti! Ma uffa, che palle! Io devo andare a commettere l'omicidio! Guarda che ci pagano! Mica lo facciamo gratis! No, Nicolò, mi spiace! Avevi promesso e oggi stai a casa! Maria da Brescia, buongiorno! Eccomi. Anche lei ha un nipotino di 11 anni, sta prendendo spunto dai soliti idioti. Sì, ma mi fate sentire... Oddio, sta piangendo. Ho un ritorno di voce, non riesco a sentirmi. Ma sta piangendo, commossa? No. Turbata? No. Senta, questa mattina mi dà un fastidio il ritorno di voce. Ha un problema di udito? Ho dovrebbe cambiare le pile all'apparecchio. Non lo so, Provi a abbassare, abbassi. Col cellulare, lo tengo un po' più lontano. Che va, entra in loop con. Dopo lo sento lei. Comunque le racconto, mi avete fatto sentire in colpa. Ricordandomi cuore, perché sono una nonna forse un po' anomala, perché questa mattina, visto che ieri la nipotina non ha né salutato né ringraziato la sua cameriera, chi questo io le ho detto se non chi lo è che fai non ha chi è che non ha ringraziato la nipote? Cos'è successo? Che io pigiama accompagno le bambine a scuola. In pigiama? Allora. Vabbè, la portano via con l'ambulanza, scusi, esce di casa in pigiama. No, non mi portano via con l'ambulanza. Beh, se la signora esce in pigiama. No, scusi, faccio salire la ragazza, la loro cameriera. La serva, aprire le portiere dietro perché c'è la sicura. Ecco, e ieri lei non ha né salutato né ringraziato con l'aria un po' arrogantella. Allora questa mattina... Si prende la cintura e si dà sulle spalle la cameriera così... Due pedatone, se non ha preso saluti, a calci la sua golf. No, gliel'ho promesso. Vabbè, già qualcosa, già sulla strada buona dell'educazione. Sì, molto, molto. Vabbè, questo lei, però cosa c'entra? Lei vuol dire che lei è l'antica, appunto. Quindi. Va bene, lo so. Questa mattina, infatti, sono tutte esempi di natura digitale, di avanzato pensiero contemporaneo. Sono molto contento e vi do la linea alle informazioni del traffico. Riprendiamo tra un minuto. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Siamo al Salone del Libro di Torino, stiamo cercando, se possibile, una probabile sovrascrittura dell'ebook Cuore per le generazioni dei nativi digitali. Abbiamo avuto un valido e corroborante sussidio di nonne, anche lievemente svampite, che escono di casa in pigiama e prendono a calci le serve, dimostrando che ancora esiste un humus, un territorio umano in cui il libro cuore può essere incarnato come valore reale. Ma quello che ancora per noi è un grosso dubbio, quanto, come, in che maniera, attraverso quale traduzione, semplicemente una questione di lingua e una questione profonda legata ai valori, possa essere sovrascritto per le generazioni attuali. Roberto Mordacci, docente di filosofia morale all'Università Vita Salute San Raffaele di Torino, ha scritto Rispetto, Raffaello Cortina Editore, proprio un libro che racconta la storia del rispetto nella filosofia, nell'epica, nel racconto. Il termine rispetto è emerso dalle telefonate che lei ha ascoltato, che sono comunque un esempio significativo della generazione di passaggio fra la catalessi tonica e il post mortem e i nativi digitali. Guardi, il tema rispetto è emerso e a me ha colpito questo parallelismo che lei ha voluto tracciare, questa contrapposizione che si è tracciata con l'esempio da un lato del libro Cuore e dall'altro di questo sketch dei soliti idiota, e dove peraltro le due figure nello sketch erano la mamma stile cuore, cioè stai a casa con la mamma a fare i biscotti, molto vecchia moralità familistica e così appunto basata sul dolcetto, e invece il ragazzino totalmente alienato che va a commettere l'omicidio per denaro. Allora, lo dico in una di queste puntate, sparerà pure alla madre, prende una pistola e gli spara. Sì. Le spara. Ok, allora io credo che questa contrapposizione sia funzionale al grottesco e ci sta benissimo per mostrare la contraddizione della moralità umana e della suo rovescio, cioè dell'assenza di moralità. Ma in mezzo anche la cultura nativa digitale contemporanea ha un mucchio di riscritture del libro cuore che sono straordinariamente efficaci. Dico due esempi banalissimi. Io ho un figlio di 11 anni, tra l'altro io sono nato nel 65, 99 anni dopo la pubblicazione del libro cuore. Tentai di leggere il libro cuore attorno ai 9-10 anni, come si deve fare, proposto dalla scuola. Alla terza pagina mia madre mi era testimone, l'ho gettato via perché mi disturbava, ok? era profondamente disturbante la melensaggine in cui erano immersi dei valori che erano veramente questa è la trappola valori. È la trappola in cui tutti siamo caduti, però Alberto esatto. Salza proprio allora, nell'ultimo minuto attenzione. Alberto Salza nell'ultimo minuto ci riesce a dire secondo te qual è la possibile sovrascrittura, visto che abbiamo la supposta culturale che ci porterà via gli ultimi 4 minuti? È la forma essenzialmente. A me hanno chiesto la grande differenza tra dove lavoro io in mezzo all'Africa e il mondo moderno. Qui da noi io ho visto 20 adulti intorno a un bambino e il bambino di 3 anni non capiva assolutamente niente. In Africa ho visto sotto una pianta un adulto con 20 bambini, tutti capivano. Se le nostre macchine fanno arrivare ai nativi digitali il suono della voce di Zucconi, che è tutta una poesia con le parole di cuore, questo può trasformare come esperienza sinestetica proprio di vivere una meraviglia, come un mantra entra come un mantra può entrare molto più che non una trascrizione banale di parole e noi abbiamo moderne. Mandato la rilettura di Carmelo Bene, che naturalmente lo legge in chiave ironica e dissacatoria.